Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Dracula di Bram Stoker. Traduzione di Rosanna Pelà. Diario del dottor Seward. 11 ottobre, sera. Nessuno di noi, credo, si è stupito quando la signora Hacker ha domandato di vederci un po' prima dell'ora del tramonto. Da tempo avevamo capito che l'alba e il tramonto sono per lei momenti di particolare libertà, nei quali la sua vera personalità può manifestarsi senza una forza estranea che la controlli, sottomettendola o limitandola o incitandola ad agire. Questo stato o disposizione di spirito comincia circa una mezz'ora prima dell'alba o del tramonto veri e propri e si prolunga alla mattina finché il sole è alto e alla sera fin quando le nuvole sono ancora infocate dai raggi che passano sull'orizzonte. Da principio si osserva uno stato quasi inespressivo, in cui sembra che vengano sciolti dei legami cui segue presto una assoluta libertà. Tuttavia, quando questa libertà finisce, il cambiamento o ricaduta si manifesta in fretta, preceduto soltanto da un intervallo di silenzio significativo. Questa sera, quando ci siamo incontrati, essa era in un certo modo costretta e i segni di una lotta interiore erano visibili in lei. Reputo che essa abbia fatto un violento sforzo non appena le è stato possibile. Poi le sono bastati pochi minuti per acquistare il pieno controllo di sé. Allora ha fatto cenno a suo marito di sedersi accanto a lei sul divano, su cui stava semidistesa, e a noi di avvicinare le sedie. Prendendo tra le sue una mano del marito, ha cominciato a dire: «Eccoci qui, tutti insieme in libertà, forse per l'ultima volta. Lo so, caro, so che sarai sempre con me fino all'ultimo». Questa frase era rivolta al marito che, come potevamo vedere, le stringeva con forza la mano. «Alla mattina partiremo per compiere il nostro lavoro e solamente Dio sa che cosa sarà riservato a ognuno di noi. Voi siete tanto buoni con me, che avete acconsentito a portarmi con voi. So bene che tutto quanto possono fare uomini scrupolosi e arditi per una povera, debole donna, la cui anima è forse perduta, non ancora, ma in ogni modo è in pericolo, voi lo farete. Non di meno dovete ricordare che io non sono come voi. Un veleno scorre nel mio sangue, nella mia anima, e può distruggermi. Anzi, è destinato a distruggermi a meno che non ci giunga qualche aiuto. Amici miei, voi sapete quanto me che la mia anima è in gioco, e pur sapendo che esiste una via d'uscita per me, voi non dovete prenderla né devo farlo io». Ci ha guardati tutti, uno dopo l'altro, cominciando da suo marito e finendo su di lui con un'espressione implorante. «Che cos'è questa via?» ha chiesto Van Helsing con voce roca. «Questa via che noi non dobbiamo, che non possiamo prendere. La mia morte ora, per mano mia o per mano di qualcun altro, prima che il male più grande sia interamente compiuto. Io so, e lo sapete voi, che qualora io fossi morta, voi potreste e vorreste liberare il mio spirito immortale, come avete fatto per la mia povera Lucy. Se la morte o la paura di morire fosse l'unico ostacolo che si frappone, io non esiterei a morire qui, subito, in mezzo agli amici che mi vogliono bene. Ma la morte non è tutto. Non posso credere che morire in questa circostanza, quando ancora abbiamo speranze davanti a noi e un compito migliore da portare a termine, sia il volere di Dio. Quindi, da parte mia, io rinunzio alla certezza del riposo eterno e procedo nel buio, forse verso le cose più turpi che esistono nel mondo o nell'aldilà». Siamo rimasti in silenzio perché istintivamente capivamo che questo era soltanto il preludio. I nostri volti erano rigidi, quello di Harker si è fatto grigio come la cenere. Forse egli intuiva meglio di noi quello che sarebbe seguito. La signora Harker è andata avanti a parlare. «Ecco quello che io posso mettere in collazione». Non ho potuto fare a meno di notare l'insolita espressione legale da lei usata in questa circostanza e in tutta serietà. Ma che cosa darà ognuno di voi? Le vostre vite, lo so, ha aggiunto in fretta, e questo non è difficile per degli uomini coraggiosi. Le vostre vite appartengono a Dio e potete restituirle a Lui, ma che cosa darete a me? Di nuovo ci ha guardati con aria interrogativa, ma evitando questa volta il viso del marito. È sembrato che Quincy la capisse. Ha annuito e il volto della signora Harker si è illuminato. Vi dirò dunque in chiare parole ciò che voglio, perché tra noi, a questo proposito, non deve sussistere alcun dubbio. Mi dovete promettere, tutti quanti, e anche tu, mio diletto sposo, che se verrà il momento, mi ucciderete. Quale sarebbe il momento? Era la voce di Quincy, bassa e tesa. Quando sarete tutti convinti che io sono cambiata, a tal punto da rendere la mia morte preferibile alla mia vita. E quando io sarò morta nella carne, voi, senza un minuto di esitazione, mi trafiggerete con un paletto e mi taglierete la testa, o farete quant'altro sarà necessario per restituirmi la pace. Quincy è stato il primo ad alzarsi dopo la pausa. Si è inginocchiato davanti a lei e, prendendole una mano, le ha detto in tono solenne: «Io sono soltanto un uomo rozzo e forse nella mia vita non ho fatto niente per meritarmi questo onore. Ma vi giuro, su tutto quanto ho di più sacro e caro che semmai venisse questo tempo, io non mi sottrarrò al dovere che voi ci avete imposto. E vi prometto inoltre che farò di tutto per accertarmene, perché se soltanto avrò un dubbio riterrò il momento venuto. Mio vero amico», è stato tutto quanto essa è riuscita a dire, piangendo a calde lacrime. Poi si è chinata a baciargli una mano. «Io giuro lo stesso, mia cara Madame Mina», ha esclamato Van Helsing. «Anch'io», ha detto Lord Godalming, e uno dopo l'altro gli amici si sono inginocchiati davanti a lei per farle la promessa. Io li ho imitati. Poi suo marito, lo sguardo smorto, il viso di un pallore verdastro che mitigava il candore dei suoi capelli, si è rivolto a lei per chiederle: «Ma devo farti anch'io una simile promessa, moglie mia?» «Anche tu, sì, mio carissimo», gli ha risposto essa, e nella sua voce, nei suoi occhi, c'era un'infinita, struggente pietà. «Non devi indietreggiare. Tu sei la persona che mi è più vicina e più cara al mondo. Le nostre anime sono fuse insieme per l'intera vita e per l'eternità. Pensa, caro, che in certi tempi uomini coraggiosi uccidevano le loro mogli e le loro donne per non lasciarle cadere preda del nemico. E le loro mani non erano certo rese più vacillanti dalle suppliche delle donne amate, che li imploravano di sgozzarle. È dovere degli uomini agire così nei riguardi di coloro che essi amano, nei momenti di dolorose prove. Mio caro, se il mio destino sarà di trovare la morte per mano di qualcuno, sia questa almeno la mano di colui che più mi ama. Dottor Van Helsing, io non ho dimenticato la pietà che avete dimostrato nel caso della povera Lucy verso colui che amava». Qui si è interrotta, avvampando improvvisamente, e ha cambiato il giro di frase: «Verso colui che più di ogni altro aveva il diritto di donarle la pace. Se una simile circostanza dovesse ripetersi, io conto su di voi perché trasformata in un ricordo sereno nella vita di mio marito il fatto che sia stata la sua mano amorosa a liberarmi dall'orrenda schiavitù che mi grava addosso. Di nuovo, io giuro, ha risuonato la voce del professore. La signora Harker ha sorriso, ha proprio sorriso, e con un sospiro di sollievo si è appoggiata indietro, dicendo: «E ora?» Una parola di ammonimento, un ammonimento che non dovrete mai dimenticare. Quel tempo, se mai verrà, può presentarsi subitaneo e inaspettato, e in tal caso non dovrete indugiare, ma agire cogliendo l'occasione. In un momento simile io stessa potrei... No, se quel momento verrà, io sarò di sicuro alleata con il vostro nemico contro di voi. Un'altra richiesta ancora. E la sua voce si è fatta molto solenne. Non è di vitale importanza come la prima, né così necessaria, ma io vorrei che faceste una cosa per me, se siete disposti ad accontentarmi. Tutti abbiamo fatto un cenno di assenso, ma nessuno ha aperto bocca, non occorrevano parole. Desidero che leggiate il servizio funebre. È stata interrotta da un cupo gemito di suo marito, gli ha preso una mano e se l'è posata sul cuore. Un giorno o l'altro dovrei pur leggerlo per me, qualunque possa essere la conclusione di tutta questa spaventosa vicenda. Sarà un pensiero consolante per tutti o per qualcuno di noi. Lo leggerai tu, mio carissimo, spero. Così resterai impresso per sempre nel mio ricordo con la tua voce, qualsiasi cosa accada. Ma mia cara, l'ha supplicata lui, la morte è ancora lontana da te. No, ha replicato essa alzando una mano ammonitrice. In questo momento io sono sprofondata nella morte ancora di più che se una tomba terrena gravasse su di me. Moglie, moglie mia, lo devo proprio leggere, ha protestato ancora Harker prima di incominciare. Mi sarebbe di conforto, marito mio. Essa non ha aggiunto altro e ha approntato il libro. Harker ha cominciato la lettura. Come posso, come potrebbe chiunque, descrivere quella strana scena? La sua solennità, la sua malinconia, la sua tristezza, il suo orrore, ma al tempo stesso la sua dolcezza. Perfino uno scettico, il quale non può vedere altro che una parodia di amare realtà in tutte le cose sacre o commoventi, si sarebbe sentito sciogliere il cuore alla vista di quel gruppetto di amici affettuosi e devoti, inginocchiati intorno a quella signora tanto colpita e afflitta, o nell'udire la tenerezza appassionata della voce di suo marito che di tanto in tanto si doveva interrompere, stroncato dall'emozione mentre leggeva le parole semplici e belle del servizio per i defunti. Io non posso continuare le parole. La voce mi manca. L'istinto della signora Harker non l'aveva ingannata. Per strano che fosse, per bizzarro che potrà sembrare in seguito a noi stessi, che in quel momento ne abbiamo sentito il potente influsso. E se quella tua voce è un grande conforto. E il successivo silenzio, indicante che la libertà di spirito della signora Harker stava scomparendo, non ci è parso carico di disperazione, come avevamo temuto tutti. Diario del dottor Seward, 28 ottobre. Quando i tre uomini sono usciti per occuparsi dei loro compiti, Van Helsing ha pregato la signora Harker di riesaminare le copie dei diari e di trovargli le pagine scritte da Harker sul castello. Essa è andata a prenderli non appena la porta si è chiusa alle sue spalle. Van Helsing mi ha sussurrato: «Noi pensiamo la stessa cosa. Parlate!» È in corso un cambiamento. È una speranza che mi angoscia, perché potrebbe deluderci. Appena entrata, Mina ha consegnato a Van Helsing un certo numero di fogli dattiloscritti. Egli li ha esaminati con attenzione e di tanto in tanto, mentre leggeva, il suo viso si illuminava. Poi, tenendo le pagine tra l'indice e il pollice, ha detto: «Amico John, a voi con già così tanta esperienza e anche a voi, cara Madame Mina, che siete giovane, qui è una lezione. Non avere mai paura di pensare. Una mezza idea spesso a me ronzava nel cervello, ma io avevo paura di lasciare che spiega le ali. Ma ecco adesso, con più conoscenza, io ritorno a dove è venuta quella mezza idea e scopro che non è affatto mezza idea, ma pensiero completo, sebbene così giovane che ancora non è forte abbastanza per usare sue piccole ali. No, come il brutto anatroccolo di mio amico Hans Andersen, esso non è affatto pensiero anatroccolo, ma un grande pensiero cigno, che naviga nobile con grandi ali quando viene il tempo che lui le prova. Vedete, io leggo qui quello che ha scritto Jonathan. Quell'altro della sua stirpe, il quale in un'epoca successiva portò a più riprese le sue truppe al di là del grande fiume in terra turca. E quando venne respinto, ritornò ancora e ancora e ancora, sebbene costretto a ritirarsi da solo dal campo insanguinato dove i suoi uomini erano stati massacrati, perché sapeva che lui solo, infine, avrebbe trionfato. Che cosa dice a noi questo? Non molto. No, il cervello infantile del conte non vede niente, e per questo lui parla così libero. Vostro pensiero umano non vede niente, mio pensiero umano non vede niente fino proprio adesso, no. Ma ecco qui, viene un'altra parola da qualcuno che parla senza pensare, perché anche lei non sa che cosa vuol dire, che cosa può voler dire. Proprio come esistono elementi che restano in sospeso, ma in corso di natura prendono loro via e si toccano, allora... E arriva un lampo di luce grande come cielo che acceca e uccide e distrugge alcuni, ma mette in mostra tutta terra sotto per leghe e leghe. Non è così? Bene, io debbo spiegare. Per cominciare, avete mai studiato la filosofia del criminale? Sì e no. Voi, John, sì, perché è uno studio di pazzia. Voi, no, madammina. Perché crimine non tocca voi solo una volta. Eppure vostra mente lavora giusto e non ragiona a particolari, ad universale. È questa particolarità dei criminali. È così costante in tutti i paesi e in tutti i tempi che perfino polizia, che non sa molto di filosofia, arriva a sapere empiricamente che è così. Questo è essere empirici. Il criminale lavora sempre a un solo crimine. Questo è il vero criminale, che sembra predestinato al crimine, e questo non ha cervello di uomo completo. È intelligente, è astuto, è pieno di risorse, ma suo cervello non è di statura umana. In molte cose è di cervello infantile. Ora, questo nostro criminale è predestinato anche lui al crimine. Anche lui ha cervello infantile, e quello che lui ha fatto è tipico di bambino. Il piccolo uccello, il piccolo pesce, il piccolo animale impara non attraverso il principio, ma empiricamente. E quando impara di fare qualche cosa per lui, non è motivo di partire di questo per fare di più. «Dos ponsto», diceva Archimede, «datemi una leva e solleverò il mondo». Fare una volta è la leva per cui cervello infantile diventa cervello di uomo, e finché lui ha intento di fare di più, continua a fare stessa cosa di nuovo ogni volta, come che ha fatto prima. Mia cara, vedo che vostri occhi sono aperti e che a voi il lampo di luce mostra tutte le leghe della terra. perché la signora Harker, con gli occhi brillanti, si era messa a battere le mani. Il professore ha continuato. Ora parlate voi. Dite a noi due aridi uomini di scienza che cosa voi vedete con occhi così luminosi. Le ha preso la mano e l'ha tenuta tra le sue, premendole istintivamente e inconsciamente, io credo, il polso tra il pollice e l'indice mentre essa parlava. Il conte è un criminale e appartiene al genere dei criminali. Nordau e Lombroso lo classificherebbero così, e qui a criminale la sua mente non è formata in modo perfetto. E di conseguenza, quando si trova in difficoltà, deve cercare espedienti nell'abitudine. Il suo passato ce ne offre un indizio. È l'unica pagina che conosciamo e dalla sua bocca stessa, riguardante tale passato, ci dice che già una volta, essendo in quello che il signor Morris definirebbe un pasticcio, è ritornato nel suo paese dalla terra che aveva tentato di invadere e là, senza abbandonare il suo intento, si è preparato per un secondo sforzo. Poi è tornato sul posto, meglio equipaggiato per la sua impresa, e ha vinto. Allo stesso modo è venuto a Londra per invadere un paese nuovo. È stato battuto. E vedendo che ogni speranza di successo era perduta e la sua esistenza stessa era in pericolo, è fuggito in patria attraversando il mare esattamente come un tempo era fuggito dalla terra di Turchia attraversando il Danubio.